L'Italia vista dallo spazio di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Salve a tutti, questa è Radio 24, questa è l'Italia vista dallo spazio, puntata del 7 agosto, puntata numero 7. Io sono Achille Corea, ben ritrovati nel programma che ogni giorno esplora un argomento, un tratto tipico dell'Italia, degli italiani e dell'italianità e cerca di raggiungere il numero di 24 simboli, oggetti, cose da salvare, da inserire in questa nostra navicella spaziale virtuale per lanciarla il 31 agosto nell'etere e nello spazio e per dire questa è l'Italia, o almeno questo è quello che l'Italia vorrebbe essere. Come sapete, noi in ogni puntata affrontiamo un argomento e poi vi diamo 24 ore di tempo per votare la cosa che vorreste salvare in quella determinata categoria. Posto numero 6, in attesa di assegnazione. Nella puntata di ieri abbiamo parlato di libri e a dimostrazione che quando affrontiamo un argomento non stiamo tanto a guardare, diciamo, il lato tecnico, le cose, diciamo, di fredda tecnica e qualità, diciamo, in senso assoluto. Ieri avete votato dei libri che volevano tutti essere simbolo e racconto di come gli italiani sono, sia in positivo che in negativo. Quindi diverse segnalazioni per Pinocchio con tutto il suo carico di burattini, burattinai, gatti e volpi. Avete proposto in diversi il Gattopardo, facendo l'immancabile citazione: se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Ma alla fine la proposta con più adesioni e meno opposizioni è stata la Divina Commedia. Non tanto per il suo indiscutibile valore letterario, ma perché volevate proprio un libro che raccontasse le nostre grandezze, le nostre bassezze e le nostre piccolezze. E lì, diciamo la verità, c'è tutto. Quindi nella nostra navicella, insieme alla teglia di melanzane e la parmigiana, il CD col suono del motore della 500, ad Alex Zanardi, al DVD di Amarcord, alla nostra confusione, mettiamo anche una copia della Divina Commedia di Dante Alighieri. Posto numero 6, assegnato. Cari confratelli, vi ho portato un piccolo dono. La zizzona di Battipaglia. Oh, sono 5 kg. Vedete, il primo segno che è una mozzarella di qualità è quando, come dicono loro, cacciolat. Com'è, presidente? Cacciolat. No, senza la E. Cacciolat. Cacciolat. Attenzione. Allora, partiamo da una cosa personale. Io sono meridionale e da sempre sono accompagnato, quando guardo un film, quando sento un dibattito in televisione, quando leggo un racconto che riguarda un meridionale, da questa immagine che è ancora quella di Totò e Peppino a Milano, di noi meridionali che quando partiamo anche per 3 giorni mettiamo nella valigia una mozzarella, una soppressata, un barattolo di qualsiasi cosa, basta che sia sott'olio. È leggermente fastidioso, è un luogo comune, però diciamo la verità, non è del tutto falso. Quindi, diciamo, affrontando la cosa con leggerezza e con le dovute pinze, io non posso permettere di far partire questa navicella che noi lanceremo senza che ci sia dentro almeno un prodotto tipico italiano. Non lo permetterei se partisse per una settimana, figuriamoci lanciandola nello spazio. Quindi quello che vi chiedo oggi è di scegliere un prodotto tipico italiano, di dirci soprattutto perché secondo voi dovrebbe essere simbolo dell'Italia nello spazio e di motivarcelo all'800 24 0024 oppure sulla nostra pagina Facebook che è l'Italia vista dallo spazio. Anche oggi abbiamo degli ospiti perché vogliamo stimolarvi e farci dare dei consigli e il primo ospite che sono veramente contento di avere con noi è Gianmarco Tognazzi, benvenuto. Ma salve a tutti, salve. Gianmarco, sono contento di averti perché, come dicevo prima, noi, diciamo, più che alle questioni tecniche, alla ricerca della qualità in senso assoluto, badiamo anche molto alle questioni sentimentali e simboliche che le cose si portano dietro. E tu, oltre ad essere un attore, ovviamente tutti ti conosciamo, ti occupi anche di un'azienda che si chiama La Tognazza, che suppongo che abbia dentro di sé molto di sentimentale. Ma sì, io in realtà me ne occupo perché sono solo il tramite, sto portando avanti un'idea nata a mio padre negli anni 60, che era un maniaco del fatto, cioè è stato, diciamo, l'anticipatore del biologico, perché voleva che tutte le cose che cucinava fossero frutto del suo orto e della sua vigna e della sua terra. E quindi niente, ho soltanto cercato di realizzare un sogno, che era quello che il suo vino e il suo olio arrivassero ai suoi amici, che poi lui considerava il pubblico, e quindi ho fatto da tramite di una cosa che non ho inventato, ho soltanto ereditato e cercato di mantenere per far arrivare con gli stessi, diciamo, con le stesse caratteristiche con cui lui me le ha lasciate. Quindi abbiamo fatto il vino e adesso stiamo facendo arrivare sulle tavole anche l'olio, e portiamo avanti questa seconda passione di Ugo al pubblico e alle persone che lo hanno amato anche sotto il profilo gastronomico, ecco. Sì, perché lui in fondo era un po' anche il primo. Adesso è normale vedere attori, registi, showman in televisione a cucinare. All'epoca era una cosa un po', diciamo, fuori dal mazzo, fuori dalle dalla comune. Assolutamente, credo che sia stato uno dei primi che anche in maniera ossessiva, quando poteva, ci infilava anche in diretta in una trasmissione televisiva una cottura di una pasta piuttosto una ricetta buttata lì, e lo ha fatto in radio, in televisione. A quel tempo lo facevano praticamente al maschile solo lui, al femminile a Veninchi. Ora è diventata sia una moda che una cosa che funziona molto, e questo parla anche delle capacità anticipatorie che aveva mio padre nel saper cogliere con anticipo appunto quelle che erano delle abitudini che poi tutti gli italiani hanno, perché tutti gli italiani in fondo al maschile e al femminile amano cucinare, e ultimamente mi sembra che stiano riscoprendo comunque il gusto per le cose che tradizionalmente ci sono più vicine. Io leggo una frase sul vostro sito, sul sito della Tognazza, che è: una volta c'era una nonna, una mamma, una campagna, un orto, ricreiamoli. C'è anche questo desiderio, quello di ritornare un po' a delle cose più nostre? Sì, credo proprio di sì. Insomma, lui ne parlava, quella frase è una frase del suo primo libro di cucina, è del 72, quindi voglio dire, già c'era questo riappropriarsi delle piccole cose, di ripartire dalle cose naturali fatte in casa e come dire, creare il proprio menù mediterraneo attraverso quello che poi è la fortuna del nostro paese, di avere una terra che ti può dare qualsiasi cosa, e quindi insomma è la filosofia che poi noi abbiamo voluto sposare, cioè ritornare ai piaceri della tavola, diciamo, genuina e in qualche modo controllata. Mio padre si sbizzarriva anche in ricette assolutamente incredibili e anche molto difficili da fare, e non sempre gli venivano come voleva, però insomma aveva questa grande fantasia e questa grande capacità di inventiva che poi ha rimesso in tutti i suoi libri. E diciamo che i due prodotti principe della terra dove noi viviamo, che è Velletri, quindi diciamo il Basso Lazio, è legato appunto al vino e all'olio, e sono i due prodotti più importanti. Ma l'orto che aveva lui era un orto veramente che gli ha rovinato, lo ha rovinato economicamente, perché una zucchina gli costava praticamente 20.000 lire 40 anni fa, e quindi capisci bene che era un impegno sicuramente molto nobile ma anche molto dispendioso, perché poi lui non si accontentava, pretendeva che l'orto gli desse tutti i tipi di frutta e verdura che lui piantava, ha fatto anche degli innesti assolutamente impossibili. Ecco, dicevamo di creatività, fantasia, diciamo anche genio e velocità di esecuzione. Mi viene in mente, visto che i vostri primi prodotti sono stati il vino tapioco e il vino Antani, adesso state puntando... Vabbè, adesso però cioè, devo specificare, perché sennò il tapioco in realtà è un Trebbiano Malvasia ed è un bianco. Io gli ho dato nome tapioco perché pensavo che l'unica differenza tra quello che aveva inventato lui fosse trovare un appiglio con quello per cui lui è più famoso, e mi sembra che anche a livello politico iniziano a interessarsi alla supercazzola. Quindi, l'hanno studiato, se posso dire, ci sono dei corsi di supercazzola ormai che si fanno in giro per le città d'Italia, e così insomma l'idea che non avessero un nome i due vini, allora gli abbiamo voluto dare l'inizio e una parte della supercazzola, che come sai era Terapio Tapioco, come se fosse Antani la supercazzola prematurata con scappellamento a destra. Quindi Tapioco e Antani sono i due nomi che abbiamo dato al vino. Adesso all'olio ancora non gliene abbiamo data una, però potremmo chiamarlo Sbidiguda, forse. È un ottimo nome, io lo comprerei ad esempio. Senti, Gianmarco, dici, lo potremmo lanciare l'olio italiano nello spazio? Sarebbe un buon simbolo di quello che siamo e che possiamo fare? Beh, io direi di sì, sarei sempre molto nell'incertezza, io sarei tra vino e olio, perché il vino e l'olio italiano sono comunque di classe, diciamoci la verità, superiore. Però se vogliamo fare un po' una cosa, diciamo, diversa, vogliamo dire l'olio che poi serve a condire gran parte dei piatti. È vero che il vino potrebbe dare nello spazio quell'ebbrezza che ti porta anche a vedere le cose, il nostro mondo da lontano in una maniera un po' diversa da quello che è. Però io direi, dai, portiamo l'olio? Che dite, portiamo l'olio? Sì, sì, proviamo. Anzi, io credo che dovremmo fare una puntata a parte per gli alcolici e le bevande italiane, perché c'è un mondo anche lì, quindi ci proviamo. Grazie Gianmarco Tognazzi, ricordiamo il sito della Tognazza, www.latognazza.net, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Mozzarella, pasta asciutta e maccheroni, melanzane e peperoni, il mio sciocco comincia. Quanta roba che c'è da salvare oggi, e quanti prodotti tipici. Oggi non andiamo sulle ricette, andiamo proprio sul prodotto, sulla cosa in sé, che poi veramente apre un mondo di angoli d'Italia da scoprire, riscoprire, e identità regionali. Pasquale da Bari, benvenuto. Sì, ciao, grazie. La tua scelta è? Sono le orecchiette. Vabbè, potremmo dire perché sei pugliese, ma dacci un motivo in più. Un motivo in più, innanzitutto condivido pienamente Tognazzi per quanto riguarda l'olio, che è una cosa storica. E poi per l'italianità, il bianco delle orecchiette, il rosso della salsa, una foglia verde di basilico ed è fatta. È la scelta cromatica. Grazie Pasquale. Bravo. Il nostro primo voto dall'800240024, ne prenderemo altri, ma vorrei sentire un altro ospite, una delle blogger, delle food blogger più famose d'Italia. Le sue video ricette sono tra le più viste in rete. È Sonia Peronaci di giallozafferano.it, benvenuta. Ciao a tutti, ciao Achille. Allora, tu insomma, diciamo, sei molto nota per le ricette che metti online, e la prima domanda che ti faccio è se nel tuo dialogo con diciamo i tuoi lettori, gli appassionati, senti l'interesse anche per gli ingredienti e per diciamo i singoli prodotti che si usano. Beh sì, assolutamente. Tu considera che appunto essendo su web praticamente interessi tutta l'Italia, ma anche il mondo intero, quindi il mio sito viene raggiunto praticamente un po' da tutti, e devo dire che i blogger, ovviamente, appunto, che adesso sono tantissimi su web, mettono ricette ogni giorno con i loro prodotti, spesso e volentieri, ma vengono anche tante volte ricercati dalle persone estere, diciamo, no? Che ci fanno continue domande, con che cosa per esempio possono sostituire un nostro formaggio che magari all'estero non si trova, per raggiungere più o meno la qualità della ricetta. Voi gli dite con niente? No, sì, a volte sì, perché spesso e volentieri all'estero ovviamente non si riescono a trovare dei prodotti che sono veramente unici e che si trovano solo in Italia. Per esempio certi formaggi, ad esempio, non sempre vengono trovati. Ad esempio la cosa banale, la ricotta. All'estero, in America per esempio, fanno molta difficoltà a trovarla. Adesso ovviamente è molto più semplice, una volta non si trovava nulla, adesso con tanti negozi italiani aperti, se sei fortunato ad essere in una città abbastanza, diciamo, fornita, riesci ancora a trovare qualcosa, ma in tante altre situazioni invece no. Sento, ci chiedono continuamente. Sento profilarsi un'altra puntata che alla fine mi porterà ad andare a cercare qualcosa da mangiare alle 17 nella Roma agostana. Sonia, qual è la tua scelta? Qual è il prodotto che consigli per il nostro lancio nello spazio? Allora, premesso che io adoro i formaggi, e noi in Italia abbiamo una varietà di formaggi da nord a sud eccezionale, io però ho scelto il parmigiano, che penso che sia proprio un prodotto che viene utilizzato comunque dal nord al sud, perché veramente in tantissime ricette si può utilizzare per condire tantissime paste, ed è un alimento comunque che va bene sia per i bambini che per gli anziani. Non c'è effettivamente qualcuno che possa non mangiarlo, perché è veramente un alimento completo e serve a fare veramente tantissime ricette. Guarda, mi allaccio alla tua scelta leggendo, citando Francesca che ci ha commentato questa mattina su Facebook quando abbiamo lanciato l'argomento. È una scelta che è utile anche perché ci ricorda quanto siamo copiati nel mondo. Certo, assolutamente. Quanti parmesan cheese ci sono nel mondo che poi non vengono fatti in Italia. Sonia, ti ringrazio. Grazie per la tua scelta, ricordo il tuo blog www.giallozafferano.it, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. ciao. Arrivano anche gli sms, ovviamente 349-238-6666. C'è effettivamente un'altra citazione per il parmigiano reggiano, ma anche per l'aceto balsamico di Modena, giustificato con la pazienza che ci vuole per farlo, diciamo, per farli maturare, per farli arrivare al punto giusto. E questa era appunto l'opinione di Roberto da Modena. E c'è anche la pizza scelta da Laura, ma la pizza la possiamo considerare un prodotto tipico in sé? Vabbè, magari ne parliamo tra poco. Mi sei degnato finalmente da venire qui. Guarda che ti ho fatto a sto negozio. È bello, cambiato da così a così. Te l'ho rifornito di tutta la roba, ci ho speso le milioni, ma tutta roba della tua qualità. Che senti sto prosciutto che senti come tu. Ho mangiato. Senti che sto prosciutto, l'ho detto, è dolce. È un zucchero, Sergio, lo senti? E sto lì, il prosciutto era proprio un zucchero, come diceva Mario Brega in questo vecchio film di Verdone, poi si dilungava sulle olive greche. Ma oggi noi parliamo di prodotti tipici italiani. 800240024, e segnalo anche Twitter, oggi mi sa che non l'ho detto, potete scrivere sia a me Twitter @AchilleCorea, oppure usando l'hashtag cancelletto dallo spazio. Marciano dice: la mortadella ottenute dalle parti meno pregiate del maiale, un po' come noi italiani che dal peggio ricaviamo il meglio. Giusto così, ci vuole una motivazione bella forte, bella simbolica. Non andiamo solo sulla qualità, andiamo anche su cosa vuol dire per noi. Pierpaolo da Bologna, benvenuto. Salve, buongiorno. Buonasera, anzi. Che cosa scegli, Pierpaolo da Bologna? Vabbè, non è che penso di doverlo neanche dire, no? Ma i tortellini. È una questione, diciamo, geosentimentale o c'è qualcosa? Credo di no, perché credo che in tutta Italia durante le feste si mangiano i tortellini, dalla Sicilia fino a Trentino. Magari hanno altri nomi, Cagnolotti, Cappelletti e quant'altro, ma alla fine, come diciamo noi a Bologna, è l'Ester Square, cioè la stessa cosa. Quindi comunque il ripieno è fatto con tutte cose tipiche italiane, quindi da chi le fa col formaggio, chi li fa col magro come facciamo noi a Bologna, col grana, col parmigiano reggiano. Italia ripiena di Italia, sintetizziamo, esatto, così. E soprattutto, come dico io, da che mondo è mondo sento, per le feste, dovunque si va in Italia, spesso e volentieri si provano i tortellini. Quando grazie. Grazie per essere stato con noi, Pierpaolo. Grazie della tua scelta. Sono i tortellini, varie cose stiamo sentendo oggi. Io però volevo ricordarvi un prodotto che magari non è il primo che viene in mente, ma che secondo me potrebbe rappresentarci, perché in Italia siamo molto bravi a farlo, almeno questo è il mio personalissimo parere, e questo è uno dei due motivi, l'altro ve lo dico dopo averlo presentato, per cui sono contento di avere con noi Guido Martinetti. Benvenuto. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Guido Martinetti è insieme a Federico Grom, uno dei due fondatori di un marchio, diciamo così, di gelati ormai diffuso in Italia e nel mondo. E il secondo motivo per cui sono contento di averlo è perché il gelato non è solo un alimento per lui, ma è stato anche un modo, come descrive nel libro Grom, Storia di un'amicizia, qualche gelato e molti fiori, di cambiare vita e di trasformare una passione in un lavoro. Sì, è stata una fortuna enorme, nel senso che la mia grande passione è l'agricoltura. Io in questo istante vi sto parlando da un campo dove abbiamo piantato da 10 giorni le fragole, le piantine di fragole, sto guardando come vengono e sto bene, in mezzo alla natura sto bene, quindi anche egoisticamente parlando, poter fare di una passione un lavoro, in parte ovviamente ci vuole determinazione nel perseguire questo concetto, cioè fare delle proprie passioni un lavoro, come abbiamo cercato di spiegare nel libro. Altrettanto, insomma, stare in mezzo alla natura, in mezzo, che poi tra l'altro diventerà cibo in qualche modo, da agricoltore lo trovo fantastico, una grande opportunità anche dal punto di vista imprenditoriale per molti giovani, questo vorrei sì, infatti, accennarlo. Questo è vero, perché noi spesso, quando abbiamo già fatto una puntata sul cibo, e a volte arrivano tantissimi messaggi di grande entusiasmo, è qualcuno che dice: ah, ma in questo momento parliamo di cibo, ma il cibo è una grande ricchezza dell'Italia, e lo è anche dal punto di vista lavorativo. Il gelato che fate voi lo vendete a Malibu, New York, Osaka, Parigi, Tokyo, cioè l'Italia è anche gelato per gli stranieri? No, senza dubbio, consideriamo, e anche qui è una fortuna che abbiamo, nel senso, intendo dire, come italiani, che ci sono alcune parole, e gelato è una tra queste, che sono comunque non così numerose, che sono identificate nel mondo come italiani per eccellenza: caffè, pizza, mortadella. Prima sentivo sia un suggerimento di un ascoltatore, sì. Esatto, sono parole che esistono sostanzialmente in italiano, in tutto il mondo si dà per scontato che l'eccellenza di questi prodotti sia italiana, quindi è una grande opportunità, soprattutto nel momento in cui quando pensiamo a un prodotto, oggi il mercato sta diventando praticamente il mondo, ecco, forse manca un continente dal punto di vista, un pezzo di un continente che è l'Africa dal punto di vista dei consumi. Ma fino a qualche anno fa mancava anche un grande pezzo dell'Asia, oggi ormai invece è un bacino di acquisto enorme, dove cresce la cultura e cresce altrettanto la disponibilità alla spesa degli asiatici, in questo caso per prodotti di qualità. Quindi è una grande opportunità, non c'è dubbio. Quindi proviamo a mandare anche il gelato come simbolo dell'Italia. So che è una domanda molto difficile, ma un gusto, se proprio dovessimo simbolicamente scegliere una vaschetta di gelato e dire questa è la nostra scelta, questa è la nostra abilità? Ma io devo dire, più che esprimere un'opinione, racconto ciò che chiedono i clienti in giro per il mondo quando nei nostri negozi all'estero. Vuoi per il suono della parola, che piace molto, vuoi per la sua riconoscibilità, ma la stracciatella, no? Che stracciatella, cioè proprio nella sua pronuncia, è molto amata dai consumatori all'estero. Quindi mi sembra che è sicuramente un gusto simbolico del concetto di gelato italiano. Poi è evidente che ci sono tante altre abitudini, per esempio la crema come si faceva una volta, cioè con le uova e solo con la scorza di limone, è tipicamente italiana, ma non è consumata tanto nel mondo, dove sostituisce questo approccio, cioè quello delle uova con la scorza di limone, con la vaniglia, quindi con un pochino di uova ma aromatizzata poi con la vaniglia e non col limone. Quindi, va bene, facciamo almeno due gusti, penso li possiamo passare, dai, un gelato con due gusti ci sta. Io ringrazio Guido Martinetti, ricordo il libro sulla storia di amicizia, qualche gelato e molti fiori, Grom, grazie per essere stato con noi, per noi è un'altra scelta italiana possibile e molto interessante, e vorrei sentire qualche ascoltatore. 800 24 00 24, questo è il nostro numero, poi leggerò anche quel messaggio da Facebook e qualche SMS. Alessandra, dalla provincia di Como, benvenuta. Buongiorno. Allora, qual è la tua scelta? La mia scelta è il miele. Lo amo da sempre e è molto sconosciuto. Volevo, come dicevo prima la signorina fuori onda, in Italia gli apicoltori sono in grado di selezionare più di 100 tipi di miele diversi. È il paese dove se ne selezionano di più, dove la varietà del clima e della longitudine, delle latitudini permettono comunque di selezionare tantissimi nettari di diversi di fiori, e poi sta alla bravura dell'apicoltore saper scegliere, saper invasettare, saper nominare i mieli. E quindi diciamo potrebbe essere un simbolo della nostra operosità, noi italiani, che purtroppo a volte siamo visti anche come un popolo un po' di pigri? Sicuramente il miele, si va dal miele del Trentino al miele utilizzatissimo per esempio nei dolci siciliani, tutta la pasta di tutti questi dolci, pasta di mandorle, che comunque presentano anche una componente di miele, di agrumi molto dolce, e tutto diciamo sommato anche, sì, anche a prezzi competitivi. Insomma, allora, ecco, grazie, anche questa è una scelta che può unire il nord e il sud dell'Italia, grazie Alessandra. Diego da Cuneo, pronto? Ciao! Che cosa mandiamo nello spazio? Nello spazio mandiamo un prodotto italiano, prodotto in tutto il mondo, ma la ricetta è italiana e ce la copiano tutti. Ed è? La Nutella. Come faccio a dirti di no? È un marchio che non è nemmeno più un marchio, è una cosa, una passione. Cioè lo stabilimento principale è in provincia di Cuneo, però ormai ci sono stabilimenti in tutto il mondo, però la ricetta è italiana. Va bene. In Francia cercano di copiarla in tutti i modi, però come la Nutella c'è solo la Nutella. Se mi dici Francia e mi dici Nutella, intanto ti ringrazio Diego da Cuneo, se mi dici Francia e mi dici Nutella, io non posso non pensare a quella scena epocale di Nanni Moretti, molto amato in Francia, in Bianca, che si riempiva la bocca con questo enorme barattolone di Nutella nella sua depressione notturna, però diciamo che la Nutella diciamo funziona anche molto come alimento a livello popolare, abbiamo anzi una clip a proposito. E niente, ci piaceva mettere un attimo questo ragazzino neomelodico napoletano che noi lo guardiamo su YouTube, siamo abbastanza anche un po' preoccupati per la sua salute, ma ci fa simpatia. Allora, dicevo prima di dei messaggi che ci state mandando, Mauro da Milano diceva sui SMS che è inutile lanciare la pizza nello spazio, c'è già, ma insieme alla Coca-Cola, forse, perché effettivamente forse la pizza l'abbiamo un po' persa, forse come marchio, come copyright, però noi ci proviamo sempre. Sento un ascoltore chiamato l'800240024, Michele da Trento, benvenuto. Buonasera Achille, complimenti per la trasmissione. Grazie. Il primo complimento della trasmissione dell'Italia Vista dallo Spazio, non ne prendiamo più. D'ora in poi non si fa, perché poi sembra sempre che è mio cugino di Trento, figuriamoci, noi calabresi abbiamo cugini un po' ovunque, potrebbe essere possibile. Qual è ma la tua scelta? L'economia ci unisce tutti in realtà, sì, forse sì. Uno dei pochi temi che unisce tutta l'Italia. E qual è la tua scelta? Io manderei nello spazio una bottiglia di bollicine, simbolo di convivialità, e il vino, ho sentito che ne ha parlato prima anche Tognazzi, è sicuramente un simbolo dell'Italia, è un mosaico di colori, di sapori e di profumi, è simbolo dell'operosità degli italiani, e le bollicine in questo momento sono sicuramente anche un esempio di convivialità, e su questo gli italiani se la cavano sicuramente benissimo. Io sì, segno questa scelta, però ripeto, perché noi nel programma poi cresce e si modifica con voi, credo che dovremo fare una puntata apposita sulle bevande italiane, ci vuole poi nel corso dell'estate. Ringrazio Michele, prendo l'ultimo ascoltatore, credo che è Gabriele, benvenuto. Buongiorno a tutti. Siamo in chiusura, ti devo chiedere qual è la tua scelta. Io porterei il pane perché si sposa con tutto quello che ho sentito fino ad ora, che è stato detto, e poi è un alimento semplice ma al tempo stesso è importante. Quindi il pane. Il pane che sta anche tornando di gran moda come, diciamo, produzione in casa, al di là delle macchine del pane su cui non mi esprimo, agli italiani sembra che ultimamente piaccia molto impastare e farsi il pane in casa. Questa è una delle scelte, siete liberi di fare tutte quelle che volete su Facebook, cliccando mi piace e poi commentando nella nostra pagina L'Italia Vista dallo Spazio, continuando a scriverci su Twitter e alla mail che la nostra app 9000 vi darà tra poco. Ringrazio Alessandro Chiappini, Antonella Migliaccio, ringrazio tutti voi per averci ascoltato, torniamo domani. Posto numero 7, in attesa di assegnazione. Inviate messaggi e preferenze a italiavistadallospazio@radio24.it.